America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Fra qualche giorno avremo l'anniversario dell'attacco dell'11 settembre del 2001. Vorrei fare così un balzo indietro nei giorni immediatamente successivi a quell'attacco. Sentiamo. Good afternoon. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Ecco, avete sentito, era George W. Bush che annunciava il suo ordine, la sua decisione di inviare truppe e di iniziare i bombardamenti in Afghanistan contro i talebani. E ho recuperato un mio commento di allora, sentiamolo. Il 90% degli americani sono schierati con Bush, è stata annunciata una guerra e ha lasciato intendere che questa nuova guerra, a differenza della guerra del Golfo, dove c'era un nemico preciso e dove l'America combatteva nel deserto sapendo chi andare a colpire con discrete misure di sicurezza per le truppe, o la guerra del Kosovo, dove gli Stati Uniti non hanno impiegato truppe di terra e quindi non ci sono state vittime, questa nuova guerra potrà fare vittime fra i soldati americani. Ecco, sono passati 13 anni da quei giorni, ma devo dire la situazione sotto molti punti di vista non è cambiata di molto. Perché? Beh, perché domani sera il presidente degli Stati Uniti Barack Obama annuncerà alla nazione la sua decisione di inviare aerei in Iraq, di continuare con i bombardamenti contro l'ISIL, di formare una coalizione per, e sembrano le stesse parole di Bush, per cominciare una nuova guerra, e una nuova guerra di nuovo contro un nemico elusive, contro un nemico che è molto abile nello sparire, contro il terrorismo. In questo caso però la situazione è cambiata rispetto allora. Perché? Beh, perché l'ISIL ha il controllo di un territorio che è grande quasi quanto la Gran Bretagna. Il presidente americano domani sera dirà che non ci sarà una facile soluzione al problema, annuncerà che la guerra continuerà probabilmente a lungo, le stime sono per una guerra forse di 3 anni. Avete sentito un altro reperto d'archivio che abbiamo, quel momento drammatico in cui le torri gemelle sono state attaccate a New York, io ero lì, ero sotto queste due torri. Ebbene, anche in questo caso posso dire, sono passati 13 anni, ma la radice della crisi di oggi torna sempre lì, torna a quelle giornate tremende in cui cambiò il mondo e torna alle decisioni successive del presidente Bush di attaccare l'Afghanistan, che forse fu una decisione giusta, e poi quella di attaccare l'Iraq, che forse fu una decisione meno giusta. Si parla di ordine mondiale, si parla di disordine mondiale, e proprio in questi giorni l'America sta dibattendo attorno a questo problema con l'intervento, devo dire, di un personaggio che di storia e di gestione di un paese ne sa qualcosa. Sentiamo Henry Kissinger. The fundamental public statements of the administration have emphasized more what we should not do than what we can. Ecco, Henry Kissinger parla del suo libro, il nuovo libro che è uscito, che si chiama World Order, non a caso, ordine mondiale, dunque con grande, grande tempismo. È un libro che propone tematiche molto attuali, di cui l'ex segretario di Stato discute in dettaglio e, per esempio, fa un'analisi storica della Russia, che ha cominciato più guerre di ogni altra potenza in Europa, dice Kissinger. Vi suona? Beh, a giudicare da quel che succede in Ucraina, direi che il signor Kissinger ha certamente ragione. Però il segretario di Stato dice anche che la Russia ha contribuito a far sì che non ci fosse una singola potenza dominante in Europa, cioè la Russia ha poi sconfitto, o contribuito comunque alla sconfitta di Hitler e del nazismo. È un problema nel contesto dell'ordine che resta, proprio in questi giorni se ne parla. L'Europa ha deciso di andare avanti con le sanzioni, non saranno applicate immediatamente, però si deve verificare che la tregua concordata tra la Russia e le forze prorusse, i ribelli prorussi, con il beneplacito di Mosca sia applicata. C'è da augurarsi che Putin, che la Russia convinca i ribelli a rispettare i termini della tregua. Sentiamo di nuovo Kissinger. Well, it's certainly ironic that we started out this relationship with the United States in a position. Ecco, qual è il messaggio di Kissinger contro la volatilità del nostro tempo? Beh, intanto è l'America, dice Kissinger, che deve portare un equilibrio, deve recuperare la sua leadership in Medio Oriente, appunto contro l'ISIL, e in Asia. E soprattutto ora che l'Europa è diventata, sempre più, parole di Kissinger, introspettiva. È il punto di riferimento storico per l'ordine mondiale per Henry Kissinger e pensate addirittura il trattato di Westfalia, il trattato del 1648 che dopo la guerra di 30 anni sancì un nuovo ordine internazionale molto simile al nostro come interpretazione geopolitica, perché era un ordine che si basava sugli equilibri. Ecco, devo dire, Kissinger ha 91 anni, lucidissimo, resta una figura storica complessa, controversa, quasi Shakespeareano, che è un teorico del realismo. Così Kissinger, quando negli anni 70 poi lavora con Nixon, ha allargato la guerra in Vietnam, ha favorito un colpo di Stato contro Salvador Allende in Cile, sempre in nome del realismo, e sempre in nome del realismo aperto con la Cina, creando poi i presupposti per il disgelo, per la nascita della nuova superpotenza economica. E oggi con Obama, devo dire, realismo e idealismo a volte si confondono. Alcuni dicono che manca una scelta chiara proprio in questo dualismo. Di certo questo dibattito riguarda tutti noi, e tanto più che, come vi dicevo, domani notte, la notte prima dell'anniversario del 9/11, dell'attacco dell'11 settembre, il presidente che ha avuto il premio Nobel per la pace annuncerà agli americani una nuova guerra, quella contro l'ISIL. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, oggi, 9 settembre, sarebbe stato il compleanno di un grandissimo cantante, Otis Redding, nato nel 1941. Pensate, pochi mesi prima, il 7 dicembre del 41, quando ci fu l'attacco a Pearl Harbor e quando l'America entrava nella seconda guerra mondiale. Ebbene, insomma, Otis Redding a un certo punto ha scritto una canzone americana molto bella, secondo me una delle più belle, e vi propongo un verso centrale di questa canzone che secondo me ha dato a questo anniversario dell'attacco che si avvicina e a questa nuova guerra. Sembra che non cambi niente, dice Redding, tutto resta uguale, non posso fare quel che 10 persone mi dicono di fare, perciò immagino che tutto resterà lo stesso. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, una delle canzoni favorite di Henry Kissinger. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!